A te che sogni una stella ed un veliero, che ti portino su isole dal cielo più vero. A te che non sopporti la pazienza o abbandonarti alla più sfrenata continenza. A te che hai progettato un antifurto sicuro. A te che lotti sempre contro il muro. E quando la tua mente prende il volo ti accorgi che sei rimasto solo. A te che ascolti il mio disco forse sorridendo. Giuro che la stessa rabbia sto vivendo. Siamo sulla stessa barca, io e te. A te che odi politici imbrillanti nati, che minimizzano i loro reati, disposti a mandar tutto a puttana pur di salvarsi la dignità mondana. A te che non ami i servi di partito, che ti chiedono il voto, un voto pulito. Partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri. A te che ascolti il mio disco, forse sorridendo. Giuro che la stessa rabbia sto vivendo. Siamo sulla stessa barca, io e te. Piccoli squinternati, qui è Rock che vi parla in diretta dal suo bel lettone matrimoniale e vi do il benvenuto alla seconda versione notturna di Radio Rock. Abbiamo aperto con Rino Gaetano e la sua TTTT, pezzo decisamente attuale se mi permettete, perché soprattutto diciamo quando parla dei politici imbrillantinati che minimizzano i loro reati da una parte e di quelli che partono incendiari e fieri e finiscono tutti pompieri dall'altra, perché mi sembra l'esatta descrizione del nostro attuale governo e della nostra attuale minoranza. È proprio uguale, la stessa cosa. Quindi, caro Rino, come sempre, ci hai visto molto avanti, insomma. A proposito, lo sai, Rino, quest'anno non ho potuto fare un salto giù al verano a trovarti, però insomma so che anche a queste cose forse non ci tieni poi più di tanto. Ragazzi, qual caldo ha raggiunto livelli preoccupanti, perché non so da voi, ma qui nella fantastica pianura padana c'è un'umidità assurda. Voi considerate che io sto davanti un ventilatore sparato in faccia e niente, non c'è modo di stare meglio, praticamente sto per morire, quindi quando finirò questa puntata, se faccio in tempo, vi saluto tutti. Insomma, ci sono vari metodi per affrontare il caldo. Ogni tanto ne sento di strane, ma senza andare molto lontano vi potrei dire cosa faccio io. A volte, nei momenti di crisi più assoluta, prendo il cuscino, lo porto giù in frigorifero, anzi in freezer, tiro fuori la roba dal freezer, sbatto dentro il frigorifero, dentro il freezer, il cuscino, aspetto un po', intanto faccio qualcos'altro, non so, bevo delle bibite fresche. Dopodiché riprendo il cuscino ghiacciato e me lo porto a letto. Questo è un ottimo sistema per affrontare il caldo, ma anche per farsi venire i reumatismi al tratto cervicale. Un altro metodo, anche questo assolutamente valido, soprattutto per farsi venire un colpo, è farsi la doccia, possibilmente fredda, ma nel mio caso sicuramente fredda, visto che la caldaia è rotta, e subito dopo aver fatto la doccia, belli bagnati, buttarsi direttamente a letto con il ventilatore davanti. Questi sono metodi, diciamo, da utilizzare. Poi ce ne sono altri, tipo mettersi nudo, farsi un giro giù in cortile e ritornare su, però se abitate in campagna è una cosa fattibile. Altrimenti no. Oppure, per esempio, prendere dei ghiaccetti. Io li chiamo ghiaccetti, in realtà non so come si chiamano, sono quelle cose azzurre che si congelano nei freezer apposta per poi tenere fresche le borse frigo. Allora si prendono quelli e si mettono nel letto un po' prima di andarci a dormire. Oppure, ragazzi, andate a vivere al mare, che è la soluzione migliore. E anche questa volta andremo più o meno a ruota libera, però più o meno, insomma, anche perché a me il caldo ha totalmente bruciato il cervello. E mi rendo conto che il caldo cambia le cose, cambia tutte le cose, le rende insopportabili da alcuni punti di vista, e invece altre le rende stupende. Se voi chiaramente siete al mare, desiderate il caldo di quelli ustionanti, di quelli che da mezzogiorno alle 4 è meglio rimanere in casa, magari fare il sesso con la propria ragazza, magari con l'aria condizionata accesa, e poi dopo le 4 ritornare in spiaggia. Ecco, quando c'è quel tipo di caldo, noi stiamo bene, ma perché siamo al mare, e quindi poi ci tuffiamo allegramente nell'acqua. Mentre invece se... ma ci sono anche altre situazioni belle per il caldo. Intanto, come accennavo prima, quando si è in due il caldo è fondamentale, ecco, diciamo. Però se per esempio voi girate in macchina, il caldo è un problema, perché qualcuno di voi può accendere l'aria condizionata, ma io vi assicuro che per la... scusate. Questo sbadiglio lo tengo, non lo voglio cancellare perché è lo sbadiglio delle ore 3 e 13. Vi dicevo, in macchina molti di voi accenderanno l'aria condizionata, però non so quanto faccio bene. Di contro, chi non accende l'aria condizionata praticamente entra in una sorta di forno a microonde, per cui fa dei viaggi allucinanti. Oltretutto, quando tu parcheggi e parcheggi sotto il sole e per puro caso non hai un parasole da mettere sul parabrezza, una volta che entri in macchina ti si sciolgono le mani appena le appoggi al volante della macchina. Però, insomma, il caldo è fastidioso per questo. Il caldo è fastidioso perché passi le notti in bianco. La gente più folle registra le puntate di una radio, ma altri si rivoltano nel letto banalmente come dei pesciolini poverini fuor d'acqua. Il caldo in ufficio è un problema. Il caldo in ufficio è un problema perché se anche lì non c'è l'aria condizionata, noi sui documenti. Ma a parte questo, aia, questo era il mio gomito contro la spalliera del letto. Noi siamo poco lucidi e se già andiamo in un lavoro che ci piace poco e se già ci obblighiamo a pensare delle cose che naturalmente non avremmo mai pensato, il caldo non ci aiuta, diciamo, tantissimo. Il caldo è favoloso, per esempio, in metropolitana, però dove la sudorazione di tutte le persone praticamente crea un'atmosfera tipo sauna generale, ma con quell'odore tipico delle palestre chiuse. Quindi soprattutto se andate per esempio a Milano sulla linea 1, dove mi spiegava un amico ingegnere, i motori sparano l'aria calda dentro i vagoni, ecco lì il caldo dà qualche piccolo problema. Infatti la gente dopo un po' comincia ad avere le allucinazioni. Il caldo è altrettanto devastante in pullman, insomma, più o meno per lo stesso motivo, anche perché poi quando ti appoggi agli altri, ma anziché toccare dei vestiti, tocchi dei panni fradici, non è molto piacevole, insomma. Però dai, tutto sommato, passiamo tante ore d'inverno. Anche io parlo sempre per la pianura padana, qui passiamo tantissimi mesi sotto la pioggia, scusate. Questo è lo sbadiglio numero 2. Prima o poi penso che perderò tutti i miei ascoltatori. Allora, noi passiamo tanti mesi al freddo. Se non è freddo, c'è pioggia. Se non è pioggia, c'è questo cielo coperto, grigio, costantemente grigio. E quindi quando fa caldo, se non altro, noi di qui possiamo andare in qualche piscina e tuffarci, insomma. Il bello è anche cominciare a vedere finalmente le donne che si scoprono. È un piacere, insomma, anche perché molte stanno per tutto l'anno con dei jeans o delle gonne praticamente anti raggi X, con dei Dolce Vita che uccidono la femminilità, insomma. E invece finalmente d'estate si vedono questi colori, questi vestitini leggeri e le ciabattine in tinta, queste ragazze così libere. Vabbè, il caldo mi fa ricordare un sacco di cose, perché il caldo è generalmente legato a ricordi quelli più positivi, a quelli estivi. Quindi ricordo per esempio a Trapani, quando ero piccolino, con un caldo così forte, per colpa del quale eravamo costretti a stare chiusi in casa fino alle 5 del pomeriggio. E ricordo quando io mettevo la mano sotto la finestra, per tirarla fuori praticamente in balcone e mi bruciavo. Ricordo molto. Ricordo tantissimo. Ve l'ho detto, a volte è veramente dolce lasciarsi abbandonare totalmente ai ricordi. Yesterday. first to drop. What if Kurt Cobain when his breath is still remained? Remember JFK ever saintly in a way? Where are you now? Where are you now? Where are you now? I said, where are you now? Honey, your affection all the way. Dillo, dai, non ti piace il blogger gentile? Tu vuoi essere stupito, umiliato, offeso, scaricato, delegittimato, affanculato? Dai, dillo, che cerchi in giro blog che ritieni volgari solo per dimostrare a te stesso che sei un ribelle. Siccome però ragioni come una capra appena munta, non ti accorgi che considerando un blog volgare, ti stai automaticamente sistemando tra le persone non volgari. E la tua apparente condivisione di intenti puzza così forte di putrido che pure gli uccelli in cielo si stanno tappando i buchi del becco per non sentirti. Dai, dillo che vuoi le emozioni forti. Meglio se qualcun altro lo scriva per te. Ma sì, che qualcun altro bestemmi al posto tuo, che sia sacrilico o satirico al posto tuo, che si sputtani e pubblichi immagini forti al posto tuo. Ci risiamo. Separi le immagini forti o accettabili da quelle consone al costume comune. Ancora quelli del gregge che pascolano con te non te l'hanno spiegato che siamo tutti figli della stessa natura. E che la creazione è una continua, casuale e banalissima combinazione di chimica e fisica. Come hai detto? Non capisco se parli con l'erba in bocca. Da quanto tempo aspettavi uno che mandasse tutti a fanculo al posto tuo, eh? Dai, di la verità, che in pubblico neghi spudoratamente, ma quando sei solo o sola, guardi tutti i DVD di Beppe Grillo e ti esalti come un deficiente. Però non muovi un dito. Come quella volta, te lo ricordi, vero? Già, come fai a dimenticare? Di la verità, come ti sentivi quella volta quando il tuo collega ha urlato vaffanculo a squarciagola al capo per il continuo mobbing subito e tu non l'hai difeso nemmeno dicendo beh, anche se dentro di te eri dalla sua parte, eh? Com'è l'erba qua? Fresca? Rumina, che poi ti si mangia con le patate e il rosmarino. Proprio in occasione della festa più santa dell'anno. Come? Non te l'hanno spiegato quelli del gregge che la tua religione va bene solo per i lupi, mentre gli agnelli come te finiscono con una patata in bocca e uno spiedo nel culo? Ah, non lo sapevi che ti stanno dando da mangiare solo ed unicamente per ingrassarti? E dimmi, come pensi di cavartela se continui a mangiare la loro erba, eh? L'erba dell'ignoranza? L'erba dell'oscurantismo, l'erba del non sapere, l'erba della non cultura, oppure l'erba della cultura del non. L'erba delle pecore come te, insomma. Che fai? Tremi? Hai trovato tuo figlio mentre guarda un sito porno? Ma dentro di te non trovi il coraggio di sgridarlo perché lo sai che sei tu il primo maniaco sessuale di casa. Oh, dolce mammina, con quale coraggio urli a tua figlia di 18 anni che deve smetterla di truccarsi come una puttana, se tu non hai fatto altro che sfogare la tua libido con chiunque ti offriva una birra, da quando hai compiuto i 14 anni fino al giorno in cui sei diventata madre, eh? E in che lingua fate le vostre prediche oggi? Ah, certo. Beh, beh, beh, può una pecora guidare un'altra pecora? Certo che può, perché la prima non sa di guidare e la seconda non sa di essere guidata. E già, ragazzi miei, il mondo è veramente pieno di sapientoni, pieno di gente che ti deve spiegare come si fa una certa cosa. Attenzione, io non sto parlando di quelli che hanno avuto delle esperienze e che te le trasmettono. Io sto parlando di un'altra categoria. Io parlo di quelli che non hanno mai fatto un cazzo per tutta la vita. E che appena tu gli dici, io ho questo problema, non riesco a uscire fuori da questa situazione, cosa devo fare secondo te? Loro non ti rispondono, secondo me dovresti fare così, oppure guarda, non lo so, io non sono mai stato nella tua condizione. No, loro ti rispondono, si fa così, è giusto così. E tu prendi il loro consiglio perché in quei momenti hai bisogno di una parola. E poi però ci ripensi un attimino, ti gratti la fronte e ti dici: ma questo che mi dà sto consiglio l'ha mai fatto? È un po' quello che succede quando ci sono gli adulti che si sentono il dovere di spiegarmi la vita, anche quando loro non hanno fatto niente. E per adulti intendo i vostri genitori, i vostri insegnanti, il vostro parroco, che vi insegna, che è fantastico, fanno anche i corsi prematrimoniali per spiegare alle coppie come si vive in coppia. Loro che hanno deciso di restare soli. Questo è un mondo fatto così. È un mondo di sapientoni, ma è anche un mondo pieno di pregiudizi. La gente ti giudica a volte solo per quello che vede, e fino a qui diciamo che potrebbe lontanamente essere comprensibile. Anche a me capita di guardare una persona e farmi subito un'idea. Scusate, questo è lo sbadiglio delle 4:06. Capita, dicevo, di guardare una persona e dire: sì, secondo me quello sta vivendo una certa situazione, ma da qui al pregiudizio di cui parlo io ce n'è di strada. Loro giudicano il tuo passato. Quando Michael appariva fugacemente nelle sue interviste molto rapide o in queste, insomma, in questi momenti pubblici, mostrava sempre un volto che era una maschera e non era più se stesso, o forse era molto più genuino lui di noi. I giudizi e la morale lo hanno totalmente distrutto, anche se dal processo per atti di pedofilia venne scagionato completamente. Lui era il risultato che lui saltava sul letto con dei bambini, e ricordo che nessuno volle credere che lo faceva perché si sentiva un bambino anche lui. L'intervista che ho seguito qualche giorno fa era molto toccante, perché Michael continuava a negare i cambiamenti del suo aspetto e poi ha cominciato a parlare del padre violento. Diceva che il padre lo picchiava anche i suoi fratelli. Ma la cosa che più mi ha toccato e che diceva che il padre continuava a dirgli che era brutto. Forse è per questo che tutti quelli che erano affezionati a lui pensavano che il fatto che volesse cambiare aspetto dipendesse proprio da questa cosa. Sempre nell'intervista che ho visto, lui continuava a dire che si sente come Peter Pan, anzi, diceva che lui è Peter Pan. E infatti c'erano delle riprese anche all'interno della sua villa di Neverland, e la figura di Peter Pan era un po' ovunque. Ma chi siamo noi per giudicare questa cosa? Al di là del fatto che lui fosse veramente colpevole o no degli atti di pedofilia, ma come abbiamo detto, lui non lo era secondo gli atti pubblici. E quindi, per favore, non fraintendetemi, perché sembra che lo voglia giustificare anche nel caso in cui fosse stato colpevole, ma assolutamente sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che tu, in ogni caso, per loro sei colpevole. Michael, non so chi era l'uomo davanti al tuo specchio, ma sicuramente so che davanti al mio faccio già fatica a capire chi sono io. Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. Not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. Change his way, and no mess is gonna mend anything. giovani squinternati. Temo che questa chiacchierata stia arrivando al capolinea, anche perché ormai ho perso ogni barlume di lucidità, quindi è meglio chiudere qua. Vi ricordo che una delle prossime puntate avremo il piacere di ascoltare i pensieri notturni anche della nostra amica Nicole, con cui ho registrato una divertentissima puntata in esterno e credo che sarà la prima di una lunga serie. A me non resta altro che augurarvi buonanotte, ma voi, prima di andare a dormire, alzatevi un attimo, andate a sciacquarvi il viso, poi guardatevi bene allo specchio e chiedetevi chi è quell'essere che vi sta fissando. Se lo riconoscete, fategli un sorriso e augurate buonanotte anche a lui.